am fine, I'm the light, and I'll shine over the night. And then I fly so high, and I know your wings are just like mine. This is my soul, I will let it flow, 'cause today I'm someone that I know I don't care if it's last day of summer, I'll bloom in winter. I won't let myself down, so I win forever. And today I'm wherever I am, I'm a revolution. I won't let myself down, so I win forever. And today I'm wherever I am, you my revolution. Sembra possibile, ora che so guardare al di là del male, riesco a vedere l'invisibile, e sono io quella spirale ascendente. Se sono io, mistico cuore, mistica mente, e tu ti specchi davanti a me. Siamo diversi ma uniti, e io mi cerco dentro di te. Quando mi trovo sento i brividi, brividi. I won't let myself down, so I win forever. And today I'm wherever I am, I'm a revolution. I won't let myself down, so I win forever. And today I'm wherever I am, you my revolution. Ascolto bene il suo cuore questionandomi. Do gasti anche in tutte le terre a suo mondo in questa vita. Ci vongi luci, cuore e anima, donuto tutta forza mia. Die, dopo die, sono non di essi vencitori. C'ho di tempo su, du sciugumento flori. Prima o poi dovura pa' sboggiai, e pazienza prodotto su che affrontai. Dopo si ero superano, sono sicura d'arribai. In questa vita, con questo sove, ci vuoi si contai. Mi gruba tu, ma non mi fermo mai. I won't let myself down, so I win forever. And today I'm wherever I am, I'm a revolution. I won't let myself down, so I win forever. And today I'm wherever I am, you my revolution. You my revolution.